State ascoltando La Voce della Russia. In onda il notiziario, al microfono Alessia Moretti. Oggi a mezzogiorno il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una sessione di botte e risposta con i connazionali in diretta TV e radio. Quest'anno il dialogo è giunto alla sua 11ª edizione. Tra le altre emittenti radio e televisione l'ha trasmesso in diretta anche il sito web della Voce della Russia, in inglese, arabo, spagnolo e russo. Il presidente ha risposto a 85 domande. Particolare interesse per i cittadini ha trovato la tematica russa, lo stato delle cose in economia, nella sfera sociale. Solo alcune domande riguardavano la tematica internazionale. L'odierno botta e risposta di Putin con i connazionali in diretta TV e radio ha stabilito un record in assoluto per durata, circa 5 ore, e per numero dei messaggi indirizzati al presidente, circa 3 milioni. Il primo ministro Dmitry Medvedev ha definito l'attuale programma statale per lo sviluppo dell'agricoltura della Russia uno dei più efficaci negli ultimi 20 anni. Intervenendo giovedì alla seduta del governo a Mosca, egli ha fatto sapere che nonostante le determinate difficoltà negli ultimi 5 anni, il raccolto medio annuo di cereali è stato di 86 milioni di tonnellate. Medvedev ha comunicato altresì che nell'ambito del programma Target Federale Sviluppo della Campagna hanno migliorato le loro condizioni di alloggio circa 100.000 famiglie russe. La Russia svolge un ruolo importante nella garanzia della stabilità e della sicurezza della regione transcaucasica, ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Armenia, Edward Nalbandian, al termine dei suoi negoziati che ha condotto a Mosca con il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov. Secondo le sue parole, la Russia è il partner ed investitore principale per la Repubblica. Sergei Lavrov, a sua volta, ha sottolineato che Mosca intende mantenere l'interesse dei giovani armeni per lo studio della lingua russa. A Messina, in Sicilia, è apparsa la piazza dei marinai russi. Gli abitanti della città hanno espresso in tal modo la loro gratitudine a coloro che parteciparono all'operazione di salvataggio della popolazione locale e alla liquidazione delle conseguenze del terremoto del 1908, quando solo a Messina persero la vita 85.000 persone. I primi ad essere venuti in soccorso furono i marinai russi. Nell'arco di 6 giorni di lavoro fervido furono salvati più di 2.000 cittadini. La lotta contro la corruzione dei paesi sviluppati e quelli emergenti è il tema centrale di una conferenza ad alto livello del G20 apertasi oggi a Parigi. Quest'anno ad aver promosso il forum è stata la Russia, a cui è passata la presidenza del G20. La sua delegazione, guidata dal primo vice capo del governo russo Igor Shuvalov, la Russia è convinta che la corruzione è una grave barriera sulla via della crescita dell'economia mondiale. Il vantaggio che le forze governative hanno ottenuto nella guerra siriana si è delineato grazie alla milizia popolare, ha detto nell'etere della Voce della Russia il ministro della giustizia della Siria, Orman Arzuabi. Secondo lui, proprio la volontà di molti giovani di difendere il loro paese ha consentito di cambiare l'equilibrio delle forze in questa guerra. Orman Arzuabi è convinto che la parte dell'opposizione che viene sostenuta dagli Stati Uniti e dai loro alleati è solo la facciata per coprire gli obiettivi turchi, qatarioti, americani e sauditi. Più di 100 cittadini russi della CSI che hanno dichiarato di volere lasciare il territorio della Siria sono giunti oggi con un aereo speciale del ministro della protezione civile della Russia a Mosca. Il velivolo, partito da Latakia, è atterrato nella notte tra mercoledì e giovedì all'aeroporto Domodedovo della capitale. In totale sono arrivate 104 persone, tra cui 76 russi, 21 ucraini e 6 cittadini della Bielorussia e un cittadino dell'Uzbekistan. Il fondo russo a Kosovo e la società Cisco, uno dei maggiori progettisti mondiali delle tecnologie online, hanno firmato mercoledì a Washington un memorandum sulla cooperazione nello sviluppo del settore della Bielorussia. In terzo documento hanno aperto le loro firme il presidente del fondo Viktor Westerberg e il vicepresidente della Cisco per i problemi della politica globale e i rapporti reciproci con gli organi di potere statale, Michael Timmelli. Inoltre la Cisco ha firmato un accordo di intenti con l'Istituto di Scienze e Tecnologie Coltec. Tutto ciò è avvenuto nell'ambito della seduta del gruppo di lavoro per le innovazioni presso la Commissione Presidenziale Russo-Americana. Abbiamo trasmesso le notizie. Da Mosca, La Voce della Russia. Cari amici, ogni sera alle 19 ore italiana potete ascoltarci in DRM sulla frequenza di 9880 kHz. Sul nostro sito potete seguirci 24 ore al giorno. Alle 23.30 replica sulla frequenza di 1548 kHz. Ogni settimana, da martedì a domenica, alle 9 e alle 13 sulla frequenza di 1512 kHz, i nostri programmi vengono irradiati da Onda Media Broadcast nella zona dell'Emilia Romagna orientale. Nelle nostre trasmissioni, notizie, commenti, interviste, reportage dalla Russia e dal mondo, programmi sulla storia, la cultura e tanto altro ancora. Vi saremo grati se parlerete di noi ai vostri amici e conoscenti. Vi auguriamo un buon ascolto e risentirci sulle onde della Voce della Russia. Siete sintonizzati sulle frequenze della Voce della Russia. Va in onda il programma di informazione in Russia e nel mondo. È pronto ad impegnarsi a migliorare i rapporti con l'Occidente. Alla luce degli ultimi tragici avvenimenti negli Stati Uniti è diventato chiaro che esistono tanti problemi che si può combattere con l'insieme. La Russia che in questo momento non potrà evitare i rimproveri reciproci, ma per condurre il dialogo ci vuole rispetto reciproco. Di problemi internazionali il presidente Putin ha parlato durante il conferenza di stampa in diretta TV e radio. Io già многократно свою позицию высказывал. Мы наблюдаем. Massicce iniziative, ossia comizi dell'opposizione, sono possibili, anzi sono utili, ma esclusivamente nei limiti della legge. Не за политические взгляды люди осуждаются. Tutti devono rispettare la legge, adesso che si interessa ogni giorno e devono anche più importante risolvere insieme i problemi esistenti. Una delle sue prime vittime. Abbiamo detto più volte che invece di fare dichiarazioni bisogna fare impegnarsi a fare passi pratici e collaborare in modo più stretto nella lotta contro il terrorismo. Se molti Washington veramente uniranno i loro sforzi in questo campo, si potrà evitare il futuro di attentati del genere. Il Presidente ha sottolineato ancora una volta che il problema della diffusione degli umori estremisti è sempre più grave soprattutto le strade della. Il rallentamento dell'economia russa è dovuto innanzitutto a fattori interni. È emerso che Kudrin, che per oltre 10 anni ha diretto il Ministero delle Finanze, di recente ha ricevuto l'invito a riprendere il servizio statale, ma ha rifiutato. Egli ha precisato che non è pronto ad occuparsi di palliativi senza un netto programma di ristrutturazione dell'economia nazionale. Il Presidente ha riconosciuto che è necessario correggere la situazione, ma senza provvedimenti sconsiderati e mantenendo le priorità attuali. Restando il fatto che nel campo della politica monetaria o creditizia oggi occorrono dei provvedimenti rigidi, il Presidente ha rilevato che questa politica è mirata alla riduzione dell'inflazione, il che risponde agli interessi dei cittadini e dell'economia nazionale nel suo insieme. Da Mosca la voce della Russia. Al microfono Nadia Ciamina. I desiderosi di porre una domanda a Putin erano letteralmente milioni. Come di tradizione, il presidente della Federazione Russa partecipa in un dialogo diretto con il popolo. Durante le diverse ore del botta e risposta di Putin con la Russia sono stati toccati i temi più diversi. Dal canto nostro ci siamo rivolti per un commento a Silvio Pons, professore di storia dell'Europa orientale presso l'Università Roma II. Ora ascolterete un frammento tratto dall'intervista gentilmente rilasciata dal professore alla voce della Russia. Durante la diretta, la linea diretta col presidente, vorrei ripetere che è un formato molto particolare, il presidente ha ricevuto dei messaggi e quindi i cittadini potevano porre queste domande sia via telefono che via internet, e però per la maggior parte dei casi le domande ruotavano attorno alle problematiche interne al paese, della politica interna della società, però una domanda riguardava anche le relazioni internazionali. Vorrei citare la domanda stessa. Secondo lei i rapporti della Russia con l'Occidente sono peggiorati? La attende l'incontro con Obama a settembre. Avete intenzione di restaurare rinnovare i rapporti che ci ricordano i tempi della guerra fredda? Fine citazione della domanda di una persona presente nello studio. E in questa domanda si faceva riferimento anche alle famose liste, la lista Magnitsky, lista di Yakovlev, e faceva riferimento alle ultime vicende russo-americane. Il presidente ha risposto, cito: il raffreddamento con gli Stati Uniti è cominciato a partire dalla storia con l'Iraq. Oggi c'è il caos e noi non dobbiamo appoggiare quello che non riteniamo giusto, anche se in Occidente la pensano diversamente. Durante uno degli ultimi incontri con i miei colleghi all'estero si è parlato di diversi problemi, tra cui i diritti delle minoranze, dei matrimoni omosessuali, eccetera. Noi abbiamo un'altra società, dice il presidente. Qui è impossibile adottare i loro standard. Non dobbiamo pretendere niente uno dall'altro, ma dobbiamo rispettarci. Dobbiamo comunque cercare il dialogo e migliorare il clima. Come potrebbe commentarci la posizione espressa da Putin? Beh, in questo caso non è facile esprimere un solo commento, perché si tratta di una questione che presenta molti aspetti diversi. Il primo aspetto è quello delle relazioni diplomatiche, politico-diplomatiche tra la Russia e gli Stati Uniti, o più in generale tra la Russia e l'Occidente. Nella domanda non si nomina l'Europa, ma esiste ovviamente anche una questione molto importante di rapporti tra la Russia e l'Unione Europea. Io direi che sotto il profilo delle relazioni politico-diplomatiche ci sono stati frequentemente degli alti e dei bassi nel rapporto tra la Russia e gli Stati Uniti, e indubbiamente la decisione dell'amministrazione Bush di fare la guerra in Iraq ha comportato un serio deterioramento di questa relazione. Tuttavia, come storico, devo dire che non credo all'evocazione che frequentemente viene fatta del fantasma della guerra fredda, diciamo così. Credo che la guerra fredda sia un'epoca chiusa, finita, che non possa tornare, perché la guerra fredda non è stata soltanto un conflitto di potenza, ma è stato un conflitto di potenza intrecciato con un conflitto di carattere ideologico, che nel nostro mondo globale non ha più senso. Noi viviamo in un mondo di interdipendenze, con queste interdipendenze tutti gli stati, innanzitutto i grandi stati, gli stati che hanno una grande responsabilità nella politica mondiale, come la Russia e tanti altri naturalmente, devono fare i conti questa realtà dell'interdipendenza. Perciò penso che sotto il profilo delle relazioni politiche, diplomatiche ed economiche possiamo aspettarci naturalmente momenti migliori o peggiori, ma non credo al ritorno alla guerra fredda. Questo è un primo aspetto. L'altro aspetto è quello della adozione o meno di standard occidentali. Mi pare che ci sia un'allusione alle problematiche civili e sociali di cui si discute molto in Occidente, negli Stati Uniti, ma anche in Europa in questo periodo, per esempio quello dei matrimoni tra omosessuali. Esatto. Io credo che questa sia una questione molto delicata su cui vale la pena aprire un dibattito. Non mi è molto chiaro che cosa intende il Presidente quando dice: noi abbiamo un'altra società, non è possibile adottare i loro standard. Ecco, questa è una divisione tra un mondo e un altro che forse nella globalizzazione è difficile da compiere, questo tipo di distinzione. Il punto non è naturalmente adottare standard di un paese piuttosto che di un altro. Ogni paese ha le sue caratteristiche culturali, le sue tradizioni, le sue identità, ed è giusto che resti legato a queste identità. Però il dibattito sulle grandi questioni della bioetica o dei diritti civili, o addirittura appunto di un'estensione di questi diritti fino a concepire matrimoni tra omosessuali, tutta questa problematica a me pare una problematica sempre più transnazionale e globale, in cui è difficile dire che ci siano degli standard. Ci sono dibattiti aperti e risposte diverse in vari paesi del mondo. L'importante non è, diciamo, arrivare tutti ad adottare la stessa soluzione, ma semmai avere tutti una possibilità di discutere quali soluzioni adottare. E questo credo che sia la vera questione, ed è la questione, diciamo, della piena libertà di espressione delle opinioni pubbliche, delle opinioni tra cittadini. Io più volte ho letto e ascoltato anche i discorsi del Presidente Putin, e mi è capitato spesso di imbattermi nella sua affermazione che anche sotto il profilo politico, sotto il profilo della democrazia democrazia, ogni paese ha una sua tradizione e quindi diciamo, adotta le standard di democrazia che ritiene opportuno adottare. E questo credo che sia una visione che deve essere rispettata, tutti naturalmente, ogni paese ha i suoi ordinamenti, ogni paese ha le sue istituzioni, ogni paese ha i suoi problemi democratici, tra l'altro l'Italia, che è il mio paese, vive una stagione particolarmente delicata in questo momento, proprio sotto il profilo delle istituzioni, della credibilità della politica e dell'ordinamento democratico stesso, che deve essere riformato, ripensato secondo le necessità del paese. E detto questo, penso che ci siano dei valori universali di libertà, di possibilità di espressione, anche di dissenso e di opposizione, di manifestazione delle libertà individuali, espressione delle pubbliche opinioni, che rappresentano anche qui non tanto uno standard, quanto un'esigenza, un bisogno che si sviluppa nel sempre di più nel nostro mondo globale. Pensiamo a quelle cosiddette primavere arabe, quello che è successo nei paesi arabi, naturalmente anche qualche volta con risvolti drammatici e terribili che dovrebbero essere evitati e prevenuti assolutamente. Ecco, credo che questo, anche sotto il profilo degli standard della democrazia e di libertà, non si tratta di adottare degli standard, ma si tratta di avere delle aperture alle problematiche che non possono essere soltanto chiuse all'interno di una sovranità nazionale, ma devono avere un risvolto più generale, un dialogo con tutto quello che succede nel mondo, una possibilità di una permeabilità anche alle tematiche non soltanto economiche, ma anche culturali e politiche della globalizzazione. Avete ascoltato un frammento dell'intervista rilasciata a Tatiana Santi da Silvio Pons, professore di storia dell'Europa orientale, sulla linea diretta del presidente Putin, in particolare sul tema delle relazioni internazionali. L'intera intervista andrà in onda prossimamente. Seguiteci. Da Mosca, la voce della Russia. Al microfono Alessio Amoretti. Enrico Letta ha ricevuto il difficile incarico di formare il nuovo governo. Oltre al vice segretario del PD, tra i candidati figurava anche Giuliano Amato. Ci siamo rivolti per un commento sulle ultime vicende politiche italiane a Tiberio Graziani, presidente dell'Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliari e direttore della rivista Geopolitica. L'incarico dato al giovane Letta, Enrico Letta, è un incarico che rappresenta sicuramente un punto di equilibrio tra le due coalizioni. Certo, sono due coalizioni un po' particolari, in particolare quella del centro-sinistra, che è molto eterogenea. L'incarico dato a Letta avviene in un periodo in cui il PD, il Partito Democratico, ha in corso una risistemazione interna, una riorganizzazione interna data dalle fratture che sono emerse durante l'elezione del capo dello Stato. Possiamo dire che questo incarico dato a Letta è un incarico molto difficile, è stato sicuramente per il presidente Napolitano, però c'è anche da dire che è uno dei nomi che è stato fatto anche dal leader del centrodestra come candidato. Oltre il nome di Letta era stato fatto anche il nome dell'ex primo ministro Giuliano Amato, quindi c'è una certa difficoltà nel valutare il lavoro che dovrà svolgere il presidente Letta. La complessità è data anche dall'organizzare la compagine del governo, la compagine governativa, vale a dire la scelta dei ministri, e su questo chiaramente Letta dovrà tener conto degli umori e delle correnti in seno al centro-sinistra e in seno in particolare al suo partito, il Partito Democratico. Secondo lei, anche se ogni previsione è molto difficile, ardua, si tratta di un governo di lunga durata oppure no? Per gli auspici del Presidente della Repubblica Italiana, chiaramente dovrebbe essere un governo non tanto di breve o lunga durata, ma di un governo che porti a conclusione alcune riforme fondamentali per l'Italia in questo periodo, vale a dire una riforma che è sicuramente quella della legge elettorale, una riforma che è quella per la promozione della crescita economica e infine una riforma anche di tipo istituzionale. Noi siamo in presenza oggi di qualche novità rispetto agli anni passati, con questo voglio dire che siamo in una fase che possiamo già definire post-repubblica. Repubblica parlamentare. Ciò ormai è stato reso palese dall'elezione del capo dello Stato, dalla difficoltà che i grandi elettori hanno avuto nel trovare un candidato, nel trovare un nome che rappresentasse tutte le forze politiche e quindi fosse l'espressione di coesione nazionale. Come possiamo in generale, facendo una piccola conclusione, descrivere le difficoltà che sta passando la politica in questi periodi, quindi non solo la responsabilità che da oggi avrà Enrico Letta, ma anche qualche giorno fa sono state le elezioni del Presidente della Repubblica, come possiamo descrivere tutto sommato questo periodo politicamente? Beh, questo è un periodo ovviamente molto difficile per l'Italia, per il popolo italiano, ed è molto, molto complesso. Una descrizione facile e sintetica è difficile darla. Ci sono alcuni elementi che ci fanno pensare appunto che siamo in un periodo in cui il meccanismo istituzionale italiano è in una fase molto difficile, è un meccanismo che si è inceppato, quindi vanno trovate delle soluzioni non soltanto nuove, ma delle soluzioni efficaci sul piano della riforma costituzionale italiana. La macchina dello Stato sembra essersi inceppata in un periodo proprio in cui c'è una situazione globale e nazionale anche dal punto di vista economico veramente preoccupante. Avete ascoltato il commento gentilmente rilasciato a Tatiana Santi da Tiberio Graziani, presidente dell'Istituto di Alti Studi Geopolitica e Scienze Ausiliarie e direttore della rivista Geopolitica, sull'incarico di Enrico Letta dalla Presidenza del Consiglio. Grazie per l'attenzione. Mentre l'Unione Europea sta combattendo i problemi finanziari tra le proprie file, la situazione economico-sociale in altre regioni del mondo sta cambiando in meglio, in modo lento ma sicuro. Tale conclusione è contenuta nel rapporto più recente della Banca Mondiale. Resta il fatto che nonostante alcuni fattori negativi, negli ultimi 30 anni nel mondo si registra la tendenza alla riduzione della cosiddetta povertà estrema. Questo tasso riguarda il numero di persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno. La tendenza si è manifestata in modo particolarmente efficace nel primo decennio del secolo XXI, quando è stata registrata in tutte le regioni del mondo, tranne la regione dell'Africa a sud del Sahara. In termini dei percentuali, la riduzione si è verificata dal 50% al 21%. Vuol dire che la crescita numerica della popolazione nelle regioni emergenti non implica affatto il loro impoverimento, anzi, tutto va al contrario. Di certo, come giustamente dicono gli esperti della Banca Mondiale, anche 1,2 miliardi di persone che vivono in estrema povertà rappresentano statisticamente una cifra molto grave. Secondo le loro stime, per correggere la situazione, occorrono grossi investimenti annuali. Allora come possiamo interpretare le previsioni apocalittiche che promettono all'umanità, invece del superamento della povertà, il suo ulteriore impoverimento? Il rapporto della Banca Mondiale testimonia che il problema ha un carattere più complesso rispetto a come lo appare ai molti. Ci ha detto Jakob Mirkin, capo del Dipartimento dei Mercati Internazionali e del Capitale dell'Istituto per l'Economia Mondiale e le Relazioni Internazionali, l'IMMO, presso l'Accademia delle Scienze Russa. Il fatto è che le previsioni economiche sono una cosa molto relativa. Per questo motivo non possiamo escludere, come è già stato detto più volte nella storia economica, che si tratta del periodo di tempo che tutti considerano come il fondo, vedendo davanti solo la crisi e l'ulteriore movimento di discesa, in realtà segna un punto di svolta. Il professore dell'Accademia Finanziaria Russa, Boris Rubtsov, ha invitato gli ascoltatori della Voce della Russia a considerare in modo più sobrio le previsioni e valutazioni più pessimistiche. L'unica regione in cui lo sviluppo della situazione non suscita ottimismo rimane l'Africa a sud del Sahara. Un ulteriore terzo dei poveri, secondo le stime della Banca Mondiale, vivono in India. Il 26 aprile si celebra la giornata internazionale della commemorazione in onore delle vittime delle avarie e catastrofi radioattive. Questo giorno del 1986 alla centrale elettronucleare si verificò una tremenda avaria che indusse l'umanità a riflettere con impegno sulla sicurezza dell'energetica nucleare. L'atomo pacifico era entrato a far parte della vita dell'umanità più di 50 anni fa. I reattori nucleari hanno consentito non solo di ridurre la fame energetica, ma anche di risanare l'ambiente in tutta una serie di paesi. si riporta a titolo di esempio il caso della Francia, dove il 75% dell'energia elettrica viene prodotta dalle centrali elettronucleari, il che ha consentito di ridurre di 12 volte le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Si potrebbe credere che si tratti di una variante ideale, ma solo a condizione di un funzionamento sicuro. Intanto, lungo tutto l'arco dell'esistenza dell'energia nucleare, in vari paesi del mondo hanno luogo avarie di incidenti di varia gravità. Se ne contano già quasi 400. I più grossi sono l'incidente di Chernobyl in Ucraina, l'avaria alla centrale elettronucleare statunitense avvenuta a Three Mile Island nel 1979 e l'avaria a Fukushima 1 in Giappone nel 2011. Secondo alcuni ricercatori, l'incidente di Fukushima ha superato di 20 volte quello di Chernobyl per volume delle emissioni radioattive sommarie. Gli incidenti erano dovuti a cause diverse, ma l'esperienza di questi avvenimenti è stata studiata dagli specialisti in modo scrupoloso, ha detto Sergei Pikin, direttore del Fondo Sviluppo Energia. Ну самое главное, что человечество в ситуации техногенных катастроф выглядит. L'importanza maggiore del fatto è che in situazioni di catastrofi tecnogeniche l'umanità appare assai indifesa. Perciò occorre pensare in anticipo alle situazioni che possono sorgere, alle misure che si possono prendere per neutralizzare e ridurre il grado di impatto dei rischi. In questo senso è eccezionalmente importante l'attenzione per i problemi della sicurezza. Attualmente nel mondo funzionano circa 440-450 reattori delle centrali elettronucleari, più di 60 ne sono in fase di costruzione. Tuttavia l'incidente più recente avvenuto in Giappone ha gravemente compromesso l'immagine del settore dell'energia nucleare, la quale è stata corretta in 3 decenni trascorsi dopo la catastrofe di Chernobyl. In ragione di ciò si sono intensificate le ricerche in direzione dell'energia alternativa, ha detto Alek Dvojnikov, caporedattore della rivista Atomne Strategia, Strategia Atomica. Le alternative sicuramente non mancano, è possibile realizzare impianti energetici, gas vapore a carbone, ma esiste l'equilibrio ottimale di potenze. Gli specialisti dicono che circa 1000 reattori nucleari in sostanza possono esistere e funzionare sul pianeta. Un altro conto è che, parallelamente alla costruzione delle centrali elettronucleari, occorre risolvere i problemi riguardanti il combustibile nucleare esausto, il riutilizzo delle scorie nucleari. Tuttavia, nei prossimi 30-40 anni i reattori nucleari hanno una prospettiva e quindi si continuerà a realizzarli. Nell'ambito della giornata internazionale della commemorazione in onore delle vittime delle avarie e catastrofi radioattive, in molte città della Russia, della Bielorussia e dell'Ucraina si svolgeranno azioni commemorative. In 10 paesi dell'Europa l'insegna del motto «Per un futuro senza Chernobyl e Fukushima» è in corso la Settimana d'Azione Europea, il cui programma prevede in particolare l'organizzazione di incontri di rappresentanti dell'opinione pubblica con liquidatori di Chernobyl, grazie al coraggio e allo spirito di abnegazione dei quali si è riusciti a neutralizzare le conseguenze. Già quest'anno gli scienziati russi possono avviare il test di un apparecchio che consentirà di individuare in modo efficace la produzione di plutonio per usi militari e di verificare l'informazione che hanno ottenuto gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica AIEA. Gli scienziati sottolineano che sarà assolutamente impossibile ingannare l'apparecchio da loro ideato. Il funzionamento dei reattori sarà controllato dal neutrino, particella elementare la cui massa di riposo è di gran lunga inferiore rispetto alla massa dell'elettrono. Alla fine del XX secolo i fisici dell'Istituto Kurchatov hanno proposto un'applicazione pratica del neutrino. Dice Andrei Gagarinsky, consigliere del direttore del Centro di Ricerca Nazionale Istituto Kurchatov. Fisici nostro istituto, довольно давно, это десятки лет назад уже предложили исследовать в том числе и i fisici del nostro istituto già 10 anni fa, studiando il neutrino nei reattori nucleari a Krasnoyarsk, avevano accertato che con l'aiuto dello studio del neutrino è possibile determinare le caratteristiche dei reattori nucleari. Gli studi nel campo dei neutrini sono in corso in molti paesi del mondo. In molti casi hanno un carattere internazionale. Il progetto più noto in questo senso è quello di Borexino, in Italia, cui partecipano attivamente anche i fisici russi. Gli esperti dicono che misurando il flusso dei neutrini è possibile seguire tutto il ciclo di funzionamento del reattore e soprattutto è possibile stabilire quanto plutonio è stato prodotto. Come ha detto alla voce della Russia è Pyotr Topechkanov, principale collaboratore scientifico del Centro di Sicurezza Internazionale del IMMO, cioè Istituto per l'Economia Mondiale e le Relazioni Internazionali presso l'Accademia delle Scienze Russa, di simili impianti possono essere dotate le strutture più vulnerabili, porti, nodi ferroviari ed autostrade, il che consente di prevenire la fuga e il trasporto di materiali nucleari. Тем более это актуально для стран, где сохранность ядерных материалов под вопросом. È piuttosto attuale per i paesi in cui risulta problematica la custodia dei materiali nucleari che possono essere utilizzati negli atti di terrorismo nucleare. Attualmente sentiamo la preoccupazione per i problemi della sicurezza nucleare in Pakistan, in India. L'esperto russo sottolinea che IMMO non dispone di propri mezzi di ricognizione tecnica. I suoi specialisti si accontentano delle informazioni che forniscono di propria volontà gli stati interessati. Quanto ai programmi nucleari dell'Iraq, del Sudafrica, ai progetti nucleari di Israele, qui l'IMMO si avvaleva solo delle informazioni fornite dai servizi segreti di altri paesi. L'AIEA è un'autorevole organizzazione internazionale, i cui documenti sono la piattaforma sulla quale il Consiglio di Sicurezza dell'ONU basa le sue risoluzioni e prende le decisioni sull'applicazione di sanzioni nei confronti di vari paesi. L'informazione di cui dispone l'AIEA va riverificata. La società russa Ilyushin Finance entro la metà di quest'anno fornirà a Cuba 3 aerei russo-ucraini AN-158. Secondo gli esperti è un accordo di grande rilevanza dal momento che la compagnia aerea cubana è diventata un primo committente del velivolo regionale di tipo nuovo. Si noti che la transazione si effettua secondo uno schema che consente di snellire in misura notevole i pagamenti tra le due società. Secondo uno schema analogo, la società Ilyushin Finance prevede di fornire aerei Sukhoi Superjet verso i paesi dell'Asia sudorientale. L'aereo per distanze brevi AN-158 rappresenta uno degli ultimi progetti della azienda ucraina Antonov, precisandosi che il velivolo stesso è in produzione russo-ucraina poiché due terzi dei suoi componenti sono di realizzazione russa. Alle forniture del velivolo al mercato cubano sovrintende la società Ilyushin Finance K.O., ISK. In tal modo l'aereo di produzione congiunta ottiene il supporto russo in materia di esportazione. L'ISK provvederà a finanziare le contrattazioni anche su altro velivolo importante, su cui Superjet 100. Prossimamente dovrà essere concordato un contratto di vendita di 15 velivoli alle compagnie aeree dell'Indonesia e del Laos. È possibile anche un ulteriore ampliamento della lista di partner, ritiene Boris Rebak, direttore generale della società di consulting Infomos. 100% скажу, что даже ни малейшего сомнения, чем больше возможностей для клиентов, тем possibilità di ottenere clienti, più vendite ci saranno. Questo è ovvio. Ma sono un fornitore accettato e del tutto funzionale. Le condizioni di lavoro che fanno più comodo a varie società sono differenti. Parlando della direzione cubana, ho constatato che nel 2013 all'Isola della Libertà saranno forniti due ulteriori AN-158. In prospettiva, La Habana potrà comprare 3 ulteriori velivoli. Nell'estate del 2013 possono concludersi i negoziati sulla vendita a Cuba di 3 aerei per lunghe distanze, IL-96. Il vettore nazionale cubana de Aviación Cubana acquista tradizionalmente mezzi aeronautici dalle aziende sovietiche, ora russe. Attualmente la compagnia sta rinnovando il suo parco aeronautico, ma non intende rinunciare ai mezzi tecnici russi. Il problema sta non solo e non tanto nelle sanzioni americane nei confronti di Cuba, sottolineano gli esperti. È semplicemente più comodo e più abituale lavorare proprio per loro. Conta anche un altro aspetto, i prezzi dei velivoli russi, ritengono gli esperti. Il primo volo dell'aereo russo-ucraino, ed ora cubano, AN-158, è previsto già in maggio nell'ambito dell'orario regolare. Avete ascoltato il programma di informazione in Russia e nel mondo. Ecco a voi le notizie in un minuto, al microfono Nadia Ciamina. Oggi a mezzogiorno il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una sessione di botta e risposta con i connazionali in diretta radio e televisiva e quest'anno il dialogo è giunto alla sua 11ª edizione. La sessione era trasmessa in diretta anche dal sito web della Voce della Russia in inglese, arabo, spagnolo e russo. Il primo ministro Dmitry Medvedev ha definito l'attuale programma statale per lo sviluppo dell'agricoltura della Russia uno dei più efficaci negli ultimi 20 anni. La lotta contro la corruzione nei paesi sviluppati e quelli emergenti è il tema centrale di una conferenza ad alto livello del G20 apertasi oggi a Parigi. Avete ascoltato il notiziario in un minuto. Da Mosca la voce della Russia, al microfono Nadia Ciamina. Ma veramente non le manca 9 a far 10? Stiamo parlando delle 9 vite di Valentina Cortese, conosciuta al pubblico russo per la partecipazione nei film Le Notti Bianche del 1957 e Giulietta degli Spiriti del 1964. Alla famosa attrice italiana è stata dedicata una grande manifestazione il 20 marzo a Pisa. Durante l'evento, che si è svolto al Teatro Arsenal, col patroncino del comune, è stato presentato il volume Le Nuove Vite di Valentina Cortese, scritto da Alfredo Baldi, già conosciuto agli ascoltatori della Voce della Russia per la sua intervista dal titolo Italia Taglia. Ha introdotto la manifestazione il professor Lorenzo Cuccu, docente di storia del cinema all'Università di Pisa. Al termine della manifestazione è stato proiettato il film Giulietta degli Spiriti di Federico Fellini, completamente restaurato. Il volume Le Nuove Vite di Valentina Cortese, scritto da Alfredo Baldi e pubblicato per l'edizione ETS di Pisa, racconta la vita e ripercorre criticamente i lavori della grande attrice di teatro, cinema e televisione. Si tratta della prima monografia dedicata a Valentina Cortese, l'ultima diva della scena italiana ed una Cortese che a marzo ha compiuto 90 anni. Grazie a centinaia di fotografie, in gran parte inedite, il libro ripercorre la vita e la carriera di Valentina, svoltesi all'insegna di inaspettate trasformazioni e ribaltamenti. Tenendo ben presente che il filo rosso che lega fin dalla prima le sue nuove vite è la ferrea volontà e la caparbietà di riuscire a imporsi e di diventare Valentina Cortese. Vi presentiamo quindi senza indugio l'intervista rilasciata da Alfredo Baldi al nostro corrispondente Daniele Ceccarini, che inizia col messaggio di Valentina Cortese letto dallo stesso Alfredo. Senti Alfredo da Valentina, mio carissimo Alfredo, che tristezza non essere lì con tutti a festeggiarti e a ringraziarti per il bellissimo tuo libro che mi riguarda così da vicino. Grazie, ho avuto modo di vederlo in anteprima e per ora scorrerlo. Mi piace, tu lo sai, la tua serietà e il tuo rigore, elementi necessari perché un libro così possa essere credibile e apprezzato. Ringrazio l'editore da parte mia, ringrazio il sindaco e la sua squisita signorità nell'avermi offerto ospitalità che purtroppo non posso godere. Ringrazio la signora Mafalda e la sua gentilezza. E a te un grazie immenso, caro Alfredo, un grazie davvero particolare. Ti giuro, sarei venuta a Pisa, città che tanto amo, anche perché, a rischio di essere multata, avrei voluto ancora stendermi sul prato, sotto la famosa torre, per apprezzarne tutta la bellezza e grazie, e ripetere il rito che facevo quando le mie primavere erano molte. Un caldo abbraccio dal cuore. Alfredo non perde tempo e ci spiega con emozione come è nato il libro. Sharon, good evening. How are you, Sharon? So they reported today in the news that today in some parts of the UK today was the hottest day of the year so far. Well, it was round here, but it was very dull and overcast. It was 23 today, but you're right, it wasn't the general direction. Molto detto fa, piano piano l'amicizia tra Valentina e me cresciuta e a un certo punto ci è venuto in mente a Valentina e a me di scrivere un libro su Valentina Cortese perché non c'era niente su Valentina, non era stato scritto. Allora piano piano, insistendo ma così senza forzature, siamo riusciti a ottenere che Valentina scrisse finalmente di sì, va bene, facciamo questo libro. I ricordi di Alfredo passano poi a ripercorrere i suoi incontri con Valentina. chiedere appunto notizie della sua vita, del suo lavoro. Non era il giornalista o lo scrittore che voleva scrivere su di lei, ma era un amico e cui lei si apriva, insomma, si raccontava praticamente senza pudori, senza trattenersi. E poi anche il suo carattere, questo di essere molto, molto libera, molto spontanea, molto, molto autentica, per cui io non ho fatto nessuno sforzo per tirare fuori a Valentina queste cose. Un mio sforzo forse è che Valentina poi tende un pochino a divagare, da un punto passa un altro, allora ogni tanto dovevo cercare di condurla su quello che mi interessava di più, però a parte questo, insomma, è stato veramente un piacere parlare con lei tantissime volte, insomma, mi ricordo. Una volta addirittura eravamo in montagna a un pranzo e anche quello tirolese, con il suo vestito tirolese, sono invitati a casa sua in montagna, su un prato, sotto un tendone, c'è anche mia moglie, è stata una cosa. Io mentre si pranzavo ho acceso il registratore e ho rubato un'ora e mezza di chiacchiere, così insomma. La narrazione di Alfredo lo porta così a parlare di Valentina. È lei che quando ha fiducia in una persona, quando si fida di qualcuno, allora si, non dico che si lascia andare, però è molto sincera, molto, molto diretta, molto, molto spontanea. Passiamo ora ad ascoltare l'intervista rilasciata dall'attrice Milena Vukotic, premio Tatiana Pavlova 2012, nonché una delle prime attrici ad aver introdotto il metodo Stanislavski in Italia. Milena Vukotic ricorda Valentina Cortesa. Sicuramente prima di tutto il suo lavoro, che credo domini più del resto, e poi i rapporti importanti che lei ha avuto con le grandi persone, a partire da De Sabata, che è stato il suo primo grande amore, e poi naturalmente Strehler. E appunto quando ci vedevamo, lei vestita da tirolese in montagna, oppure a Venezia, nella sua Reggia, è sempre un incanto stare con lei, perché lei ha questa capacità di volare e appunto, come diceva Alfredo, bisognava sempre riportarla un pochino alla realtà. Per finire, Milena Vukotic accennare l'esperienza artistica di Valentina Cortese. Valentina non si è mai risparmiata, sia nella preparazione di un testo che sulla scena. Guai a parlarmi di un nuovo personaggio mentre ne sto interpretando un altro. Potrei impazzire del tutto. Non so, mi sembrerebbe di tradire quello che in quel momento è dentro di me, o io dentro di lui. Per noi attori, quando viviamo insieme per tanto tempo con un personaggio che ci è caro, tanto che ormai apparteniamo l'uno all'altro, il distacco è particolarmente doloroso e anche pericoloso. Si portano per parecchio tempo addosso voci, gesti, abitudini che non hanno niente a che vedere poi col nuovo ruolo che devi interpretare. Ecco, in questo forse si racchiude tutta la difficoltà interiore di passare da un personaggio all'altro. È come se ogni volta si dovesse morire per poi rinascere, ed è sempre una metamorfosi lacerante, traboccante. È proprio così, è un morire per rinascere. Avete ascoltato un servizio di Daniele Ceccarini sulla presentazione del libro Le nuove vite di Valentina Cortese, scritto da Alfredo Baldi. A presto sulle nostre onde. Va in onda il programma Le antiche città della Russia. Radio La Voce della Russia continua il ciclo di trasmissioni sulle antiche città russe, luoghi di attrazione per il turismo internazionale. Oggi andremo a visitare una tenuta nobiliare unica nel suo genere, che si trova nel villaggio Dubrovici. Dubrovici è un antico villaggio che si trova circa 30 km a sud di Mosca, vicino alla città di Podolsk. Il villaggio è famoso per la sua bellissima tenuta e per la chiesa della Madre di Dio, che fu consacrata alla presenza dello zar Pietro il Grande. La pianta di questa chiesa, in stile barocco, è a forma di quadrifoglio. La chiesa non assomiglia per niente alle tradizionali chiese russe, né per gli esterni né per i sorprendenti decori interni. È ancora aperta la questione su chi sia l'autore di questa insolita costruzione, dice il direttore del museo di Podolsk, Lyubov Slasheva. Ясно, что остается, потому что много исследователей работало над темой истории. Non è ancora chiaro. Molti studiosi hanno lavorato sulla storia della chiesa della Madre di Dio di Dubrovici. Abbiamo perfino consultato l'archivio di un sacerdote del XIX secolo che riportava molte notizie. Tuttavia, finora non abbiamo trovato notizie certe sull'autore della chiesa. Alcune fonti citano l'architetto Tessing, ma non c'è niente di sicuro. L'unica cosa certa è che qui hanno lavorato maestranze straniere, cioè confermato dall'architettura stessa della chiesa. Si parla di maestri olandesi, italiani, svedesi. Dubrovici, sin dalla metà del XVII secolo, apparteneva alla famiglia Galitzin. Boris Galitzin, proprietario di Dubrovici tra il 600 e il 700, era il tutore del giovane Pietro il Grande. Galitzin era una persona molto colta e un appassionato della cultura dell'Europa occidentale. Si dice che la chiesa della Madre di Dio di Dubrovici fosse un regalo che Galitzin avesse fatto a Pietro il Grande. I lavori di costruzione di questa chiesa in pietra bianca terminarono nel 1697. Tuttavia, la nuova chiesa non incontrò l'approvazione delle autorità ecclesiastiche. Il patriarca Adriano, deciso oppositore delle riforme pietrine, si rifiutò categoricamente di consacrarla a causa dello stile architettonico occidentale. La pianta della chiesa presenta uno spazio centrale a forma quadrata, attorno a cui ci sono quattro semicerchi e il cosiddetto quadrifoglio, un elemento caratteristico dell'arte occidentale. Difficilmente lo si potrebbe considerare uno degli elementi caratteristici del barocco russo, afferma Lyubov Slasheva. Barocco è stile che è venuto a noi dal Zapad Europa, dall'Italia. Il barocco è quello stile che ci giunse dall'Europa occidentale, dall'Italia. È caratteristica del barocco la fastosità del decoro, come si vede chiaramente nella facciata della chiesa della Madre di Dio di Dubrovici. Il decoro è opera di maestri dell'Europa occidentale, quindi si tratta a tutti gli effetti dello stile barocco, poiché sono presenti tutte le caratteristiche di questo stile. Ma non direi che si tratti del cosiddetto barocco russo, ovvero moscovita. Per esempio a Mosca, la chiesa dell'Intercessione in Filì è un esempio del barocco moscovita. Tuttavia, nella chiesa della Madre di Dio di Dubrovici, l'architettura occidentale è più presente. Le autorità ecclesiastiche russe non potevano tollerare i seguenti particolari della chiesa: il gran numero di sculture, le scritte in latino e la cupola a forma di corona. All'esterno, accanto alla porta occidentale, erano state collocate le statue di due padri della chiesa, San Gregorio il teologo e San Giovanni il Crisostomo. L'interno della chiesa era decorato con altorilievi a soggetto biblico. Le scene della passione di Cristo erano accompagnate da scritte in latino. Tra le sculture c'erano anche due opere che raffiguravano la resurrezione e l'incoronazione della Madre di Dio. Nella zona occidentale della chiesa si sono conservati cori a due piani in legno dorato, sui quali nel 1704, durante la cerimonia di consacrazione della chiesa, pregava lo zar Pietro il Grande con il figlio Alexei. L'arte religiosa ortodossa si sostanzia principalmente nella creazione di icone, caratterizzate dalla mancanza della tridimensionalità. L'arte religiosa dell'Europa occidentale, invece, si esprime principalmente con pitture, dove sono applicate le regole della prospettiva e con statue di figure religiose a grandezza naturale. Proprio per questo motivo, questa chiesa all'epoca destò l'ostilità delle autorità ortodosse. Oggi, la chiesa della Madre di Dio di Dubrovici è aperta al culto. I turisti vengono da varie parti della Russia, e anche dall'estero, afferma Lyubov Zlasheva. В Падуйской Благовещении входит большое количество храмов и многие востребованные паломничества. Nei dintorni di Podolsk ci sono molte chiese che sono divenute mete del turismo religioso. Per quanto riguarda la chiesa della Madre di Dio di Dubrovici, è attiva un'agenzia turistica per i turisti provenienti da tutto il paese. Della Madre di Dio di Dubrovici occupa una posizione dominante nel panorama del complesso architettonico della tenuta. Il centro della tenuta è costituito dal palazzo, costruito probabilmente nella prima metà del XVIII secolo in stile barocco, ma successivamente ricostruito nello stile del classicismo. I suoi interni erano davvero spettacolari. Alla fine del XIX secolo, il principe Sergei Galitsin le arricchì ulteriormente con fastosi mobili italiani del XVII secolo, portati da Roma dallo stesso principe dalla residenza di famiglia. A ovest del palazzo c'è un parco di tigli secolari. Secondo la leggenda, questi sono i tigli piantati da Pietro il Grande in persona. La tenuta, nei vari periodi della sua storia, passò in mano ai rampolli delle più famose famiglie aristocratiche russe, come i Galitsin, i Dmitriev Mamonov, i Potemkin. Come di consueto, vi diamo qualche consiglio per giungere alla meta di oggi. Da Mosca, dalla fermata della metropolitana Yuzhnaya, potrete prendere il pullman che vi porterà a Dubrovici in un'ora. Siamo giunti così al termine della nostra rubrica. Vi aspettiamo come sempre fra due settimane con un nuovo itinerario turistico. Salutandovi, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Con voi è stata Laura Venniro. Trovare il testo della trasmissione nel sito www.italian.ruvru.ru nella sezione radio. Da Mosca, la voce della Russia. Per non dimenticare le canzoni della nostra storia. Contro le menzogne e le falsificazioni. Contro ogni forma di apologia del nazismo. Ripercorriamo insieme le strade della vittoria nella guerra più crudele che l'umanità abbia conosciuto. Una vittoria che i popoli dell'Unione Sovietica iniziarono a forgiare col sangue già il 22 giugno del 1941. Una vittoria che ha milioni di volti e centinaia di melodie che hanno scritto la sua storia. Con la grande battaglia di Crimea, fiorisce la guerra del 1944. La Russia è tutta la linea del fronte. Sono trascorsi 2 anni di occupazione e di resistenza. Ma è già suonata l'onda di liberazione. 500.000 di uomini, 6.000 cannoni, 600 carri armati. Non lo combattimento. Queste le forze che l'Unione Sovietica lancia contro il nemico atterragliato in Crimea. Dopo 3 giorni di combattimenti, l'armata russa entra a Kerch. Un mese più tardi, tutta la Crimea è libera. E può rifiorire la pace, come si narra questa canzone. Su Kerch il tramonto si spegne e la notte nera diventa, come le giubbe dei marinai brillano in cielo le stelle a memoria dei lampi e dei tuoni delle nostre battaglie. Il tramonto si spegne e la notte nera diventa come le giubbe dei marinai. Brillano in cielo le stelle a memoria dei lampi e dei tuoni delle nostre battaglie. Passano i giorni, ma delle vittorie non si spegne il profumo che alla gola ti prende. A Kirch dorme la notte per una nuova alba di pace. Bastano i giorni, ma della vittoria non si spegne il profumo che alla gola ti prende. A Kerch dorme la notte per una nuova alba di pace. Avete ascoltato Le canzoni della nostra storia, un programma di Aurelio Monfigilli e Anna Gomba dedicato alla vittoria sovietica sul nazifascismo. Amici, ogni sera alle 19 ora italiana potete ascoltarci in DRM sulla frequenza di 9880 kHz. Sul nostro sito potete seguirci 24 ore al giorno. Alle 23:30 replica sulla frequenza di 1548 kHz.